Radio Aelia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. Ignoti approdi, quali trasformazioni sta attraversando Bologna? Quali futuri possibili? E altri sguardi per ipotizzare, analizzare, sfruttare gli approdi possibili e creare un agire in comune. Aelia Media, molto attivati, molto media. Dal 15 di ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. www.aeliamedia.org. Buongiorno a tutti, sono Katia Baraldi con Ignoti Approdi. Oggi parliamo con nuovi possibili modi di dialogare e fare economia. Questa è la mia prima puntata di trasmissione e per l'occasione abbiamo con noi Antonio Ciolli Puviani, trader indipendente esperto di mercati finanziari, poi Federico Boreani di BAM, Bologna Art Manager, Associazione Attiva Bologna e non solo nel campo della progettazione e della gestione culturale, e a breve arriveranno anche Giorgio Pirazzori, direttore del mercato della terra, e Matteo Michetti, consulente sviluppo locale, esperto in analisi e valutazione di politiche pubbliche. Doveva essere con noi anche Elisa Coco, rappresentante del network di associazioni Siamo la Cultura, purtroppo si scusa con il pubblico e con gli altri ospiti, è impossibilitata per grossi problemi personali. Sarà con noi in spirito. Questa trasmissione perché e soprattutto perché persone che in apparenza possono essere con la loro professione lontano l'uno dall'altra. La trasmissione, come avrete sentito brevemente dalla pillola, è una trasmissione che vuole dialogare, aprire connessioni, punti di vista su vari sguardi e problematiche di Bologna, quindi anche stracciare un'analisi sulla trasformazione della città e del sistema culturale, economico della città sotto vari punti di vista e vedere dove si può andare a prodare. Appunto, da qui Ignoti Approdi. L'invito a chiamare persone diversissime come esperienza professionale è appunto per avere finalmente una panoramica diversa su temi che di solito chi si occupa soprattutto di cultura e di arte si trova ad affrontare, ma a volte non ha gli strumenti corretti per poter avere o trovare soluzioni adeguate, soprattutto in un momento di crisi economica dove le trasformazioni anche sul modo di lavorare per un operatore culturale, un curatore, eccetera, stanno cambiando radicalmente e quindi si chiedono sempre ulteriori e nuove conoscenze che invece i nostri esperti hanno già. Manderei intanto volevo dirvi che il jingle preparato per la mia trasmissione è stato composto appositamente da Luigi Mastandrea, un compositore bolognese che ha preparato anche tutta una serie di tracce per il progetto, per tutta la durata della trasmissione, insieme anche a un altro compositore che è Vincenzo Sconza, anche lui è un compositore bolognese. Sta arrivando adesso, vedo da lontano e saluto Giorgio Pirazzoli. Salve, diamo 2 minuti, intanto mandiamo un po' di musica in modo che mentre loro preparano noi ci ascoltiamo un po' di musica. Ok. Ciao. Sì, dovrebbe essere già aperto. Funziona, eh? Così, così bruscamente, perché che era il brano Elista, chiedo scusa a Luigi, ma è arrivato il nostro ospite, il penultimo ospite. Mi stanno arrivando tutti, ma un po' la chetichella. È arrivato Giorgio Pirazzoli, che, come vi raccontavo, è il direttore del mercato della terra. Vuoi spiegarcene un po' e poi dopo spiego anch'io il perché ti ho chiamato. Certo, allora grazie mille dell'invito Katia, buonasera a tutti. Allora, il mercato della terra è un'esperienza che, come Slow Food e come associazione, proprio il mercato della terra di cui fanno parte Slow Food e i produttori, realizziamo ogni sabato mattina in Cineteca. Esiste da quasi 3 anni, è nata nel novembre 2008, pian piano insomma è diventata prima un sabato sì, un sabato no, poi settimanale, ed è un'esperienza appunto che coinvolge una 50 di produttori che ruotano vendendo direttamente i loro prodotti il sabato mattina nel cortile della Cineteca. Sono produttori che provengono da circa 40 km attorno a Bologna, e soprattutto insomma la cosa che riteniamo più importante, mettiamo al centro del progetto, è questo incontro tra produttori e coproduttori, nel senso che la vendita di proprio prodotto è il motivo per cui è il mezzo attraverso il quale si riesce davvero a spiegare cos'è i prodotti del territorio e la nostra sovranità alimentare, insomma. Questo è un po' il senso di quello che facciamo. I coproduttori, per l'appunto, le persone che vengono al mercato sono in continua crescita. Pensiamo insomma che siano contenti non solo del servizio, ma del fatto che acquistare il prodotto diventa non più un momento che sottraiamo qualcos'altro, ma un momento liberato, un momento che è piacevole conoscere il cibo e chi lo fa. Allora, cibo, arte ed economia sarebbero 3 cose che non sono legate. In realtà invece qualcosa c'è, è appunto quello che mi dicevi tu, cioè il discorso del produttore e del coproduttore. Coproduttore mi è interessato tantissimo, perché è come dire che il frittore del tuo mercato in qualche maniera produce insieme al produttore. E secondo me, in un periodo di crisi economica, di cambiamenti anche del modo in cui si deve recuperare finanziamenti per fare cultura, per fare appunto per realizzare progetti, sia interessante anche questo discorso del coproduttore. Guarda. Tanto che mi sono andata a controllare, addirittura Argano, che è anche lui un esperto di project management, poi Federico mi potrà correggere se sbaglio, lui mi citava in un suo articoletto il coproduttore, in questo caso in ambito cinematografico, come uno più soggetto che fornisse ad altro soggetto una partnership di tipo organizzativo o operativo per la realizzazione del progetto. Quindi questo per me poteva anche essere una risposta alle grossissimi problemi che la crisi economica si sta affrontando. in realtà forse io potevo anche far iniziare Antonio, perché lui è un esperto dei mercati e lui dopo ci farà una panoramica del perché c'è la crisi e delle motivazioni per cui noi dobbiamo incominciare ad agire in altro modo. Io manderei un attimo una breve pausa di musicale e poi passo la parola appunto a nostro Antonio, in maniera tale che ci spieghi qualcosa di dove stiamo andando e quali sono le possibilità che noi possiamo fare, che possiamo avere. Può essere attuabile. Scusate, un attimo quando la faccio la trasmissione si sente. Aspetta. Ricordavo prima che lui è un consulente del sviluppo locale, esperto di un'analisi e valutazione di politiche pubbliche, quindi già un altro campo rispetto ad Antonio e nello stesso tempo qualcosa che interessa chi fa cultura e che cerca, come dire, di trovare sponsorizzazioni e finanziamenti. Io però farei spiegare prima a Giorgio meglio il discorso dei coproduttori, poi passerei la parola ad Antonio per dare un po' di polso di che cos'è questa crisi economica e poi da lì iniziamo un argomento un po' più intenso con i nostri ospiti. Vai, sì, coproduttore. Coproduttore è una persona che, adesso è acceso penso, e coproduttore è una persona che diciamo finanzia quella che è la produzione. Noi intendiamo appunto un rapporto produttore-coproduttore virtuoso quando le persone che vengono al mercato della terra per l'appunto o in altri mercati acquistando il prodotto in realtà è come se sostenessero quella produzione. Rendiamoci conto che stiamo parlando di produzione di piccola scala, quindi come dire un cliente abituale, un qualcuno che acquista, si interessa e sostiene le piccole economie dei produttori diventa veramente un pezzo importante di quelle piccole economie. Un piccolo esempio a cui ho assistito ieri sera, insomma, c'era una proiezione di un documentario di un'altra appunto rete di mercati contadini, quella di Campi Aperti, per la quale è stato fatto un documentario e questo documentario aveva i suoi coproduttori, diciamo, ciechi, nel senso che prima ancora che venisse girato hanno acquistato una copia di questo documentario in questa maniera, come se l'avessero coprodotto e diciamo sulla fiducia. Questa è un po' l'idea della coproduzione, sì, che realizziamo al mercato. In altri ambiti non lo so se è una materia che si possa riproporre, però penso che si potrebbe provare. Penso di sì, cioè quando mi hai parlato di documentario ho pensato a quei lavori di artisti che sono molto vicino a, non so, a film o comunque cortometraggio o mediometraggi, che potrebbe per loro essere anche un interessante punto di analisi per poter realizzare il loro lavoro, un bel punto di partenza. Ma adesso passiamo ad Antonio per questo, finalmente spieghi qualcosa un po' di questa crisi, del perché c'è e di cosa possiamo fare, poi parliamo anche con gli altri. Allora, se parliamo di crisi economica, dobbiamo parlare di dati oggettivi. È una constatazione oggettiva, non può essere soggettiva. Crisi economica si intende essenzialmente quando il livello di produzione o globale, se intendiamo dal punto di vista di un continente, di uno Stato o di insomma un qualche cosa di grande dal punto di vista macro, o a livello di disoccupazione, ovvero a livello delle persone che sono impiegate e quelle che rimangono, il cosiddetto tasso di disoccupazione, la percentuale delle persone che vorrebbero lavorare, che di fatto non possono lavorare. Un dato oggettivo quando si parla di crisi è quello che è la produzione, occupazione o reddito, che sono poi tutte interrelate. Per cui che in questo momento, in Italia specialmente, ma in tutta Europa, allarghiamo anche a Giappone, le economie avanzate, Stati Uniti, siamo in uno stato di crisi è un dato oggettivo. Non è uno stato recessivo, ovvero come è successo nel 2008, ovvero non abbiamo dei trimestri di prodotto interno lordo negativi, ovvero anche in Italia, seppur in maniera estremamente debole, quest'anno stiamo progredendo di un 0,5, un 0,6 rispetto a un anno precedente, e agli stessi Stati Uniti, pur rallentando, sono in progresso, però siamo in uno stato di crisi per quello che riguarda il livello altissimo di disoccupazione, specialmente quello giovanile, e aggiungerei per quello che riguarda le prospettive che ci sono, perché ogni crisi è targata in un certo modo, in una certa maniera. È facile dire che questa crisi mondiale che c'è è sicuramente targata debito pubblico, ovvero cosa vuol dire? L'insieme, la comunità degli operatori internazionali, chi effettivamente gli addetti al lavoro, hanno incominciato l'anno scorso, 15-16 mesi fa, a dubitare sul debito pubblico della Grecia, che è sempre uno stato della comunità europea, per cui anche in Grecia ci sono gli euro, la Grecia emette obbligazioni, ovvero debiti con la quale poi finanziare le proprie spese o parte delle proprie spese in euro, e 15 mesi fa ci si è accorti, la comunità internazionale o esperta addetti ai lavori nella negoziazione dei valori immobiliari si è accorta che probabilmente la Grecia non era capace di poter restituire i soldi che chiedeva in prestito. Per cui però, mentre la Grecia, parliamo di un paese che è circa, forse anche meno, un decimo dell'Italia, il problema, una volta arginata la Grecia, si pensava potersi risolvere. Invece via via che è passato il tempo e la crisi è precipitata proprio nel 2011, a partire da fine primavera inizio estate, sempre le stesse persone, diciamo il mercato finanziario, ha cominciato a capire, partendo dall'acronimo che è PIX, ovvero Portogallo, Irlanda, poi è stata aggiunta purtroppo l'Italia, la Spagna e il Portogallo, non avessero potessero dare le garanzie nell'emettere le loro obbligazioni, ovvero non c'era la possibilità o il rischio che questi stati che ho appena nominato potessero non restituire i soldi prestati potesse essere alto e notevole. Per quello che riguarda la Grecia, domenica prossima si deciderà di fatto un default tecnico, si deciderà di fatto che le obbligazioni della Grecia non hanno più valore o hanno un valore relativamente modesto, che può essere del 40, del 50, del 20, adesso vedremo quello che decideranno per cento rispetto a quello che dovevano effettivamente restituire. Il grande timore internazionale, ecco, l'Italia è protagonista in questo momento in tutto il mondo, anche gli stessi Stati Uniti sono condizionati, è proprio l'Italia, perché mentre per quello che riguarda la Grecia quello che è successo in Irlanda, eventualmente Portogallo, al limite fino ad arrivare alla Spagna, si può forse circoscrivere il tutto. Per quello che riguarda l'Italia, che da solo fa il doppio del debito degli altri paesi incriminati, insomma, indiziati di default, l'Italia effettivamente è un qualche cosa di estremamente enorme. Conseguentemente i mercati finanziari hanno, siccome siamo anche legati da un patto che è quello dell'euro, effettivamente anche i partner, compresi i più forti, cioè Germania, Francia e Inghilterra, che anche se non è in area euro è sempre una comunità europea, si è cercato di vedere in qualche maniera come si può fare ad arginare queste questioni. Al tempo stesso, per cui ci vengono imposti, giustamente anche dalla comunità europea e dai paesi più forti, delle leggi o dei modi di agire relativamente restrittivi. Inoltre poi la burocrazia, il malgoverno, l'eccesso di spesa inutile, tutte le cose che sappiamo, è inutile elencarle e fare una critica, che più o meno sono a corrente di tutti, fanno sì che la propulsione che sarebbe dovuta essere garantita dallo Stato, ovvero gli investimenti per la crescita, ovvero investimenti in quello che può essere l'istruzione, l'arte stessa, le infrastrutture, la giustizia, eccetera eccetera, con la scusa o con il fatto che ci sono dei vincoli di bilancio enormi che non ci impongono un'eccessiva spesa, oltre al fatto che la stessa comunità produttiva è estremamente tassata per il fatto che bisogna in qualche modo contenere le spese di bilancio, ci riducono in questa situazione che è estremamente grama e anche che in questo momento non offre grandissime prospettive di sviluppo. Questa per cui è il panorama oggettivo di quello che può succedere adesso, che succede adesso, insomma. Io qui ti fermo un attimo. Prego. Perché hai detto una cosa chiave. Questo è... Oddio, non è più possibile. Diciamo che dal momento che si taglia tutto e tutto, evidentemente quello che il pubblico cerca di finanziare, oltre che risparmiare su tutto, si risparmia dalla sanità, alla giustizia, all'istruzione, alle scuole elementari, alla polizia, alla benzina per la polizia, fino a tutto, è evidentemente che in questa serie di tagli anche i finanziamenti per quello che riguarda l'arte, le produzioni, eccetera, è evidente che ne risentono, a maggior motivo perché, cosa che non ritengo giusta, viene percepita ingiustamente un problema quasi secondario, perché in un sistema di controllo di gestione diretto non viene percepito il riscontro della cultura come un beneficio o qualche cosa che possa beneficiare subito, per cui non si capisce l'utilità del lungo periodo, o non viene capito, oppure insomma si è costretti a non capirlo. Conseguentemente sì, siamo in questa situazione che accennavi tu. Questo mi ha fatto venire in mente alcune cose. Uno, che vi raccontavo prima, mentre eravamo off, che in effetti mi è arrivata di recente una mail della cancellazione di un festival in una città del nord Italia, un festival anche importante, arrivato alla 11ª edizione, cancellato perché non aveva più i finanziamenti istituzionali. E questo è il primo problematico. E legata anche alla problematica che qui dicevi prima, cioè che la cultura non viene vista da chi si occupa di economia come un qualcosa, un prodotto che fa... Lasciatemi passare questo, probabilmente chi mi sentirà e si occupa di cultura abbrividerà, però come qualcosa che faccia... C'è bisogno di un ritorno immediato. C'è bisogno di un ritorno immediato. La cultura non sembra, vabbè, però... Però effettivamente questo andiamo a aprire un discorso che è meglio non trattare ora. Io vedo che in una situazione di questo genere si prospetta sempre più necessario una figura come quella di Federico, che si occupa appunto di economia della cultura. Economia della cultura che... ti richiede delle competenze di economia, sì, insomma, e nello stesso tempo ti porta a dover affrontare in maniera completamente diversa nella ricerca dei finanziamenti, cercare dei canali che più delle volte non si faceva prima, o comunque sia che sono anche del tutto sconosciuto per chi si occupa di cultura come me. Ci vuoi presentare intanto che cos'è la figura dell'Art Project Management, che è una figura per l'Italia nuova, in altri paesi, soprattutto in Nord Europa, è abbastanza già rodata, mi è sembrato di capire. Invece vedendo noi è un po' ancora un po' come dire agli inizi. Sì, buonasera a tutti, io mi chiamo Federico Borreani e faccio parte di un'associazione che si chiama Bologna Art Managers, già dal nome insomma, denuncia i suoi fini. Siamo un gruppo di giovani professionisti che hanno studiato a Bologna e che hanno dedicato anni di studio all'economia della cultura, alla gestione delle organizzazioni culturali, che adesso stanno portando avanti un progetto associativo e un progetto di lavoro insieme su temi comuni, che sono proprio i temi della gestione culturale e dell'economia della cultura. Come raccontavi tu, Katia, figure di questo tipo in Italia, per un certo verso, potrebbero sembrare ancora marginali. In realtà i corsi di laurea che in Italia si occupano di queste materie iniziano a essere abbastanza. Qui a Bologna ne abbiamo uno dei più radicati, importanti, che si chiama Gioca. Le sue lezioni si svolgono a pochi metri da qui. Noi, esatto, siamo in via Belle Arti, magari non so se tutti lo sanno, quelli che ci ascoltano, ma siamo qui al freddo, ma cioè, è bello comunque, è vero. Di fronte all'Accademia, poco, esatto, più in là c'è la Facoltà di Economia, dove io e i miei colleghi abbiamo studiato. Questo corso si chiama Gioca, è un corso che si occupa di gestione delle organizzazioni culturali ed è una laurea specialistica, quindi sono 2 anni che tu aggiungi al tuo percorso universitario triennale. Corsi come questo ne esistono in realtà abbastanza, e in cui confluiscono persone che hanno formazioni molto diverse, da formazioni economiche pure a formazioni che invece sono piuttosto culturali e artistiche. Per formare una figura di questo tipo c'è bisogno di un range di competenze abbastanza ampio, che vanno dalla conoscenza della storia dell'arte e dalla storia del teatro, comunque da conoscenze in materia prettamente culturale, esatto, a materie puramente economiche, che sono quelle poi dell'economia aziendale che tutti conoscono. Rispetto al discorso che ci ha appena fatto il nostro precedente ospite, noi non possiamo certo risolvere i problemi della crisi internazionale finanziaria, non siamo degli economisti finanziari, almeno chi ha una formazione del mio tipo, come raccontavo anche prima, ha una formazione microeconomica, non macroeconomica, per cui si occupa di gestione e si occupa di organizzazioni. Si occupa di sistemi, si occupa di reti, si occupa di città, si occupa di economia a un livello sicuramente più basso, più vicino al fruitore, poi al cliente, e anche comunque all'opera, in questo caso, se si parla di economia della cultura. E quindi insomma le ricette che possiamo dare noi sono ricette piccole insomma sono liste della spesa praticamente in confronto le ricette non esistono, io dicono quelle alla mia destra. Esatto, infatti io credo che una soluzione definitiva, la ricetta per superare la crisi, ovviamente non era questo il ma mio... quello che mi interessa a me è il fatto che bisogna effettivamente incominciare anche a pensare dal micro, come Giorgio ha iniziato a fare, come sì, state facendo voi. Forse è dal micro che possiamo incominciare a cambiare e modificare anche le macro realtà, però intanto è dal micro, anche dalla realtà di Bologna. Sì, assolutamente. Io per stare molto sul concreto, riprendere il discorso che ha fatto Giorgio precedentemente, nel sistema artistico-culturale l'idea di produzione dal basso è un'idea che negli ultimi anni ha avuto molta importanza e ha preso molto spazio. Io ho in mente più di un disco, ad esempio, che è stato prodotto negli ultimi anni col sistema delle produzioni dal basso. Ho in mente almeno un paio di festival che hanno provato questa formula economica. Negli ultimi anni i finanziamenti pubblici, come dicevi tu prima, sono diventati merce rara e preziosa. Non è una situazione che è destinata a ritornare florida in un periodo di tempo breve, è una situazione che con tutta probabilità rimarrà statica a questi punti. Non potremo mai tornare ai livelli di finanziamento pubblico al sistema culturale che abbiamo, che il sistema ha goduto negli anni 90 e fino, in alcuni casi fino ai primi anni 2000. Possiamo inventarci dei modi nuovi per fare le cose come le facevamo prima. Uno di questi modi è allearsi con il proprio pubblico, facendolo diventare coproduttore, quindi appunto anche di quello che stai facendo. Questo, da un certo punto di vista, l'hanno sempre fatto anche i teatri quando hanno creato le formule di abbonamento. L'abbonamento è molto complicato come oggetto di studio, però ad oggi questo sistema si è aggiornato proprio in senso produttivo. Ti ripeto, la musica, i gruppi musicali con le loro produzioni discografiche lo stanno già facendo. In un certo qual modo l'unico elemento richiesto è che l'oggetto culturale che tu vai a vendere sia in un certo modo un oggetto che si porta dietro non solo un servizio o la soddisfazione di una necessità primaria, ma un portato di esperienza, di vissuto e di ricchezza, di relazione che ti permette di fare col tuo cliente, col tuo coproduttore un discorso relazionale. Questo col cibo è facile, è molto facile, perché il cibo è in un certo senso relazione, e lo è soprattutto l'agricoltura, lo è il coltivare, lo è anche il prodotto culturale. Il prodotto culturale è un prodotto complesso, un prodotto fatto di relazioni, e che quindi si presta bene a questo tipo di ragionamenti. Quindi coproduzione anche per un progetto d'arte? Come potrebbe essere? Adesso non ti voglio per forza rubare i segreti del mestiere, però se io dovessi finanziare... Non abbiamo segreti, siamo senza segreti, senza ricette, senza segreti. Okay. Siamo... Ricordatevelo quando poi vengo a bussare la porta e cerco disperatamente. No, come si può fare quindi per realizzare un progetto d'arte? Ad esempio, mi dispiace ancora che non possa partecipare Elisa Cocco, perché sicuramente ti avrebbe fatto anche molte più domande di quante non te ne sto facendo io. Come dicevo, lei è una rete di associazioni dal teatro alla musica, legate all'arte, che si sono unite insieme per cercare di proporre e di proporsi come... nati l'anno scorso per proporsi come nuova realtà con cui in quel caso lì l'amministrazione poteva dialogare. Nello stesso tempo si sono create per poter anche, credo, creare qualcosa insieme. Adesso sto parlando per anteposta persone, però anche un'associazione di questo tipo potrebbe funzionare? In che maniera, in che modo potrebbe riuscire a creare qualcosa effettivamente insieme, che si vada anche oltre al solito corporativismo che di solito si può innescare quando varie associazioni si uniscono? Guarda, quindi, posso? Sì, certo. È molto semplice, lo potrebbe fare puntando sul pubblico e non puntando su se stessa. Di reti ne abbiamo già viste tante, le reti e l'associazionismo hanno dato una forte ricchezza a questa città. Quello in cui questa città ha sempre difettato, parlo di associazionismo culturale, è un vero e sincero rapporto con il pubblico dell'opera. È il pubblico, come l'acquirente dei prodotti del mercato della terra, è il tuo pubblico che deve essere il tuo coproduttore. Non puoi puntare a coprodurre nella cerchia dei soliti noti, mettere in rete, mettere a sistema è una cosa che dovrebbe fare il pubblico, che dovrebbe fare l'istituzione pubblica. Fare rete è una cosa importante perché ti consente di parlare con una voce sola, in alcuni casi anche nei confronti della politica, no? dei decision makers, diciamo. Dal punto di vista della produzione, il tuo primo alleato però è chi il tuo prodotto lo deve acquistare o chi lo deve o chi ne deve usufruire dal punto di vista culturale. se una rete, se un sistema di associazioni fa un lavoro vero di avvicinamento nei confronti del pubblico, cioè individua un suo pubblico di riferimento, fa un lavoro di apertura, cerca di avvicinare alla cultura persone che prima non erano vicine alla cultura, quindi fa un lavoro di ricerca di nuovi pubblici e non rimane ferma al, come dire, al contattare e al far partecipare le stesse solite persone che poi compongono il pubblico abituale di un associazionismo, di un sistema culturale cittadino, è solo ampliando e alleandosi con pubblici nuovi che si può pensare di creare anche dei sistemi di coproduzione. Quindi bisogna anche cambiare la progettualità, soprattutto a chi rivolgersi quando progetti. Ma bisogna prima di tutto avere una progettualità più che cambiarla. per cambiarla bisogna prima averla. Sì. Se la si ha, e per quando la si ha vuol dire che non solo si hanno degli obiettivi, non solo si hanno dei risultati attesi, ma si ha una strategia che leghi i propri obiettivi alle azioni proposte, allora in quel caso davanti a un progetto coerente e ben strutturato sicuramente vuol dire che si prendono in considerazione i propri pubblici, sicuramente vuol dire che si fa una comunicazione mirata ad un certo target, allora in quel caso si può analizzare la situazione e se si vede che il pubblico non è un pubblico che risponde, si può cambiarlo, ecco, però prima bisogna avere la situazione sicuramente sotto controllo. Ok, ti ringrazio. Intanto mando un attimo un po' di musica, intanto per prendere un tempo di rilassarsi, e dopo proviamo a parlare con chi si occupa o comunque sa di politiche pubbliche. Allora, sì, ma in realtà sì, anche perché non va bene. Ma io in realtà speravo di potertelo chiedere prima che cosa era, però poi dopo arriva tutto. Sì, diciamo che non è. No, ma dimmi tu tanto. Come non c'è? Io l'ho mandata. Scusatemi, è stato detto dalla regia che non c'è la musica. Non ho sentito nulla. Ma va bene. Niente, scusateci per il problema, non si sa bene perché, ma facciamoci spiegare un attimo allora da Matteo di cosa si occupa e poi mi piacerebbe che voi interagiste e vorreste anche porre delle domande, mi piacerebbe proprio dialogo, quindi anche che penso che si possa creare qualcosa di più. Io sono Matteo Michetti e mi occupo di analisi economica, quindi diciamo il profilo non è esattamente finanziario. Lavoro per una società che si chiama Ervet, che è una società partecipata dalla Regione Emilia-Romagna e che lavora al 95% per la Regione Emilia-Romagna stessa. E ho un profilo da economista, quindi in un certo senso mi sento un pochino diciamo sulla linea del ragazzo che ha parlato precedentemente. Se ho capito, il dibattito invece qui è molto su questioni culturali delle quali io mi occupo, anzi non mi occupo. Quindi per fortuna! Il mio apporto può essere eventualmente nel tentare di dare un scenari di come la situazione sta andando in regione, principalmente a Bologna, eccetera. Ed è quello che ci interessa a noi, perché in realtà di discorsi legati alla cultura purtroppo ce le facciamo tra noi operatori. Il problema era il confronto con chi si occupa appunto di mercato finanziario o come Federico, guarda, che ha questa figura diversa, e la tua che ci dice, ci dà il polso della situazione. Sarà che chi si occupa di economia spesso non spicca per ottimismo, ma rispetto a quello che si diceva prima, mi sento di rincarare la dose, nel senso che non abbiamo solo un problema di finanza pubblica. Cioè, il problema non è tanto solo il fatto che non ci siano soldi pubblici dello Stato, delle regioni, dei comuni, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che un sistema economico viene alimentato in prima battuta dalle banche, ok? Molto prima che dai soldi dello Stato e degli enti ai vari livelli. Il problema è che il meccanismo prende dentro tutto, nel senso che oggi, con i problemi che sentiamo degli spread, eccetera, eccetera, abbiamo un problema di finanziamento dello Stato. Però non dimentichiamo che sono le banche poi ad avere, essere piene zeppe di titoli pubblici. Quindi se c'è un problema in potenza, io personalmente ritengo, in questo non sono così pessimista, che perlomeno in Italia la situazione si risolverà, nonostante, diciamo, la politica non stia facendo molto in questo senso. Il problema è che, avendo le banche nei loro attivi una sfilza di titoli di Stato, nel momento in cui ci fosse un pericolo di default, le stesse banche si trovano ad avere i propri attivi patrimoniali con numeri che sono molto più bassi. Questo cosa significa? Significa che oggi, se un'impresa culturale, agricola, qualsiasi tipo si rivolge a una banca, trova dall'altra parte molta meno disponibilità a dare fido, a dare credito, rispetto a quello che succedeva anche solo un anno e mezzo fa. Perché un anno e mezzo fa e non diciamo al 2007, quando il mondo sembrava andare ancora bene? Perché la crisi è stata prima una crisi obbligazioni di aziende, no? Partita dall'America, eccetera, eccetera. Oggi è veramente una crisi di finanza pubblica, il che è molto peggio, perché gli stati tradizionalmente rappresentano l'ultima spiaggia. Quando uno stato non ce la fa più, a quel punto bisogna guardarsi in faccia. Ma Bologna ha le capacità di poter agire nel suo piccolo, di poter sopravvivere alla crisi? Allora, piano. Allora, la questione è grande. Bologna è una città ricca, quindi noi, quando facciamo questi discorsi, non immaginiamoci che domani siamo tutti col culo per terra. Facciamo discorsi al margine, ok? Quindi il problema è che, come si diceva prima, si è interrotto un trend che si dice, c'è chi ci crede di più, c'è chi ci crede di meno, è in maniera strutturale in crescita, no? Se voi guardate un grafico del PIL degli ultimi 30 anni, vedete una biscia che tendenzialmente va verso l'alto, con qualche pausa qua e là, eccetera. Ora, questo discorso non funzionerà più, punto di domanda. È questa una crisi congiunturale, come ce ne sono state tante altre, o è una crisi più strutturale, nel senso che servirà un ripensamento alla base dei rapporti economici? Questa è la domanda delle domande, quindi io non ho una risposta, come dire, convincente. Senz'altro credo che, se non altro, stiamo anche vivendo un qualcosa di straordinario, che secondo me è la rivoluzione tecnologica. Cioè, la storia la nostra storia è disseminata di alcuni momenti in cui l'uomo inventa delle cose, no? Quindi c'è stato il vapore, c'è stata gli elettrodomestici, c'è stata la macchina, insomma, dei momenti in cui la tecnologia ci permette di rivoluzionare le nostre vite, no? Sì. In maniera un po' meno filosofica, di produrre cose. Sì, sì. Ecco, oggi, mi pare di poter dire che le nostre vite stanno un po' cambiando. Io mi guardo attorno e vedo cellulari, vedo persone che sono continuamente, diciamo, connesse a qualcosa, social network, eccetera, eccetera. Personalmente penso che un qualche tipo di risposta a tutti i livelli, in tutti i campi, possa venire da un uso nuovo e innovativo di questo strumento. Pensiamo per esempio anche al modo in cui le decisioni vengono prese, cioè se la democrazia diretta, e qui apro un'altra parentesi che chiudo velocissimamente, è sempre stato un pochino un mito, perché effettivamente non c'era quel modo di tradurre il principio in pratica. Oggi, attraverso un uso sapiente del mezzo, mi chiedo, un altro punto interrogativo, potremmo per esempio effettivamente prendere decisioni che coinvolgano tutti in maniera assolutamente democratica? In questo senso, probabilmente, quando sento parlare di coproduzione, ho la sensazione che comunque i processi oggi possono essere più dal basso e più condivisi, più partecipati di quanto succedesse ieri. Infatti farò una trasmissione sulla partecipazione legata all'architettura, ma non solo, che sarà il 27 di ottobre. Però, quindi, per ritornare a noi, quindi il discorso è partire dal basso, partire dal micro, partire dal basso e condivisione e partecipazione. Questo mi sembra che siate quasi tutti d'accordo. Ma volete fare qualche domanda a voi? Dai, non siate timidi, non siate timidi. C'era chi mi diceva, finalmente qualcuno esperto di economia con cui dialogare. Ora, che c'è nessuno, non anche qui del pubblico? No? In realtà non c'è tantissimo pubblico dovuto al freddo, però 47. Perché se qualcuno vuole partecipare, tra l'altro era stato detto anche prima, può scrivere in diretta radio Aelia @gmail.com. Voi in questo momento state ascoltando radio Aelia, siete anche in diretta su Radio Kairos a 105.85. Vabbè, se volete una domanda, però non so se sia nel tema, perché bravo, poi la faccio io per curiosità. Sì. Ed è, se voi pensate che l'uso massiccio di internet, social network, eccetera, abbia migliorato o meno la nostra qualità della vita. Beh, quello è un altro discorso. Ci sono vari punti di vista, ma vabbè. Ah, ok. Ci sono vari punti di vista, cioè è ovvio che magari qualcuno, lui vuole rispondere. Antonio vuole rispondere. Senz'altro è una risposta che anche lì non si può porre in modo soggettivo, ognuno ha la sua opinione e credo che non sia neanche giusto che la sua opinione possa essere generalizzata e estesa a tutti, per cui è evidente che ci saranno persone o attività che ne avranno estremamente beneficiato, qualche altre persone no. Per quello che è il mio caso, ne ho estremamente beneficiato. Io come attività posso fare tranquillamente tutto da casa grazie a internet, a piattaforme estremamente sofisticate, all'informazione che ho in tempo reale, cosa che era impensabile, non dico nel dopoguerra, ma addirittura nel 1999-98. Ti interrompo. Prego. Perché vorrei girare la domanda. Più che altro, le nuove tecnologie possono essere effettivamente utili per la coproduzione e per anche un rinnovamento dal basso, di cui stavamo parlando prima? Anche Federico ci può dire qualcosa, secondo te? L'uso delle tecnologie, tecnologie sì. È molto qui? Ampio. Sì. Allora io rispondo alla domanda sua, secondo me sì. La qualità della vita è effettivamente aumentata. Io sono uno di quelli che pensano che andando avanti si migliori e si stia meglio, tendenzialmente. Non ho miti dell'età dell'oro. Non ho miti dell'età dell'oro di nessun genere e forma. Rispetto alle tecnologie, in senso ampio, insomma, diciamo internet negli anni 90 e il web 2.0 negli anni 10. Credo che siano diventati e diventino ogni giorno di più dei canali importanti da prendere in considerazione quando si tratta di far dialogare la cultura, l'arte con il proprio pubblico, chi fa business, chi fa impresa con i propri clienti. Quindi in generale avvicinano, cioè tagliano dei livelli, insomma, rendono le cose più veloci e un pochino più vicine, non necessariamente più chiare o più divertenti o più belle, però sicuramente più vicine e più veloci. Questo agevola chiaramente la trasmissione di informazioni, la trasmissione di contenuti e per, sicuramente per il sistema culturale di cui poi io mi occupo è un'opportunità, un'occasione di engagement, cioè di come dire, di andare a ciuffare il tuo pubblico e tenertelo stretto e farlo diventare un tuo alleato, se non un tuo coproduttore, è un'occasione straordinaria, non per forza sfruttata in pieno, ma mi pare straordinaria. Credo che, non so se Giorgio ha delle esperienze legate al mercato, ai mercati, come dire, di cui si occupa lui anche in senso internautico, però credo che sia d'accordo che certi canali aperti adesso siano diventati priorità. Penso all'esperienza dei gruppi d'acquisto, come delle, sì, sì, assolutamente, delle produzioni dal basso, delle produzioni dirette, insomma internet. No, tempo fa mi chiedevo come sarebbe oggi lavorare senza email, nel senso la velocità delle comunicazioni. Io lavoro, sono generazione che lavora senza contratti e vabbè, adesso lavoro come libero professionista, non ho mai lavorato dipendente, comunque se l'ho fatto è stato per periodi brevissimi e forse la mia generazione non ambisce neanche a farlo. Non so, il mercato del lavoro, come tante altre cose, le relazioni sono molto molto più liquide e molto molto più meno definibili. Comunque, a parte ciò, in questa velocità di rapporti, di relazioni, di scambio attraverso quelle che sono il web 2.0, che comprende appunto anche i social network, si hanno dei feedback, sì, le nostre vite, ma anche le imprese credono la possibilità di essere, avere sempre una risposta, avere sempre un riscontro, dei feedback da quello, dal pubblico, per collegarsi ad altre reti, per costruire delle reti. E questo poi comunque riguarda anche le nostre vite, insomma, e in certo senso si entra in relazione molto più facilmente. Poi che queste relazioni a volte siano diverse dalla vita reale, anche questo poi è un fatto, ecco, magari c'è una partecipazione di un pubblico in un certo modo all'interno di certe reti, per comunque lo sai che sei osservato e quindi dici solo certe cose, poi la volontà del cittadino, del produttore, della persona con la quale si relaziona magari non si muove solamente attraverso questo dipende un po' anche dalla fiducia che si ha nel mezzo con il quale ci si relaziona. Però diciamo che secondo me in generale l'impatto di queste reti è piuttosto positivo. Stiamo andando sul sociologico e la sociologia si fa un po'... Riparto io, visto che stavamo parlando su Bologna, la trasmissione ha il titolo di Gnotti a Prodi e riguarda, il soggetto è Bologna. Secondo voi Bologna ha le capacità di portare innovazione anche su le tematiche che abbiamo trattato? Il gioco non peraltro è un'università, è all'interno di una facoltà di Bologna. Ci sono delle possibilità anche per Bologna per essere un motore trainante, di sperimentatore e su nuove forme di produzione e anche su innovazione del fare appunto arte, di fare cultura e di utilizzare quelli che sono gli strumenti anche dati dall'economia, è il motivo anche per cui ho veramente desiderato questo incontro. Rispondete tutti a turno. Sì, a turno. Noi ci stiamo provando e ci stiamo provando a Bologna, insomma stiamo provando a fare esattamente queste cose qui che hai detto tu, cercare di essere innovativi, sperimentali e vicini alle nuove tecnologie nella nella, più che nella produzione, perché noi non siamo dei produttori culturali in senso stretto, nella comunicazione sicuramente. Abbiamo un corso di formazione che sta partendo il mese prossimo per i musei dell'Emilia Romagna in collaborazione con l'Istituto dei Beni Culturali, con l'IBC, che è un corso di formazione per operatori museali in comunicazione, che si baserà soprattutto sulle tecnologie del web e del web 2.0, che si chiama Comunicare il Museo, ed è proprio, va proprio in quella direzione, insomma, prendere un'istituzione che tradizionalmente è lontana da quel tipo di comunicazione e portarcela. Quindi noi ci proviamo qui, bisognerà anche vedere se il piano strategico che il Comune approva in questi giorni va in quella direzione. Guarda, dunque, io mi sento di dire questo, una risposta se vuoi un po' istituzionale. Allora, gli economisti oggi, quando diciamo un argomento che va molto di moda, ma non perché sia sbagliato, anzi, va sotto il nome di economia della conoscenza. Ci sono in giro per il mondo da anni, a dire la verità, convegni, appuntamenti in cui si parla di economia della conoscenza. Ora, sintetizzando, tendenzialmente si dice che si dice che una comunità sia dotata di alcuni asset, uno dei quali è il cosiddetto capitale sociale, che non è il capitale azionario delle aziende, ma è qualcosa di più complicato da spiegare, che ha molto a che fare con la sociologia in realtà, e che sintetizzando chiamiamo la presenza in una comunità di associazioni, ovviamente il titolo di studio delle persone, la fiducia è un tema gigante sul quale bisognerebbe parlare, dedicarci un appuntamento specifico. Ecco, in questo senso Bologna queste cose ce le ha. Ha una grande università, ha una rete di associazioni, alcune funzionano meglio, altre peggio, per carità, però ha, grazie agli studenti, ha tutta una serie di appuntamenti. Quindi, ecco, un economista direbbe che il livello di capitale sociale che la comunità dei bolognesi è in grado di esprimere è molto elevato. In questo senso Bologna, più che altre città in Italia e in Europa, io mi sento di dire, avrà modo di, come dire, rinnovarsi e cambiare in maniera positiva nei prossimi anni. Passa la parola a Giorgio e poi l'ultimo. Scusami, la domanda era se le nostre... Se ce la facciamo. Era semplicemente se siamo così innovativi, se Bologna può essere innovativa. Quindi... Ma la risposta del bolognese medio è lo era. No, dai, credo che ci siano ancora delle esperienze positive in città, vanno andate a cercare un po' con l'omicino, insomma, vanno cercate, però se credo che si diffondano col passaparola, piano piano, le cose si diffondono, le cose positive. Bisogna essere attrattivi, bisogna essere un po' più sexy quando si fa cose belle, non essere solamente etici. Ok, quindi sexy. E cosa ci dice Antonio? Ma io faccio un discorso sempre di tipo generale. Bologna sicuramente dal punto di vista storico ha rappresentato questa capacità innovativa come memoria storica, eccetera. Sicuramente poi si è seduta negli allori, sugli allori, e sta vivendo adesso, per quello che riguarda gli investimenti in questo tipo di innovazione, una crisi. Però come tutto quello che succede, da uno stato di crisi poi razionalizzando ciò che è razionabile e eliminando ciò che è poco efficiente, probabilmente, come è logico che sia nei cicli economici, ci sono tutte le possibilità e gli spazi per poter ricrescere e ritornare quello che era e o è stata qualche tempo fa. Ecco. Grazie. Ottimista. Bene, almeno che sono ottimista. Grazie a tutte per aver partecipato. Questo era Ignoti a Prodi. E adesso voi la cingole e buonasera. Anche a Radio Monte Carlo, Vi va un caffè?